Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 800 24 0024. Buongiorno, abbiamo tra le mani un libro e una persona, la persona che lo ha scritto, che ha contribuito a farlo, rispondendo alle domande di due persone sue amiche. È Fausto Bertinotti e il libro si chiama Devi augurarti, si intitola Devi augurarti che la strada sia lunga. È un libro molto fresco, molto spontaneo, molto vero. Bertinotti ha perso una battaglia politica importante, quella per l'esistenza stessa di un progetto, di un partito, di una comunità di destino, diciamo, politica. E l'ha persa nell'aprile dell'anno scorso, quando alle elezioni sono rimasti esclusi dal Parlamento i rappresentanti della lista che aveva contribuito a mettere insieme in nome di una sinistra più grande della sola Rifondazione Comunista. Ha perso e la legge della storia dice guai ai vinti, ma invece si districa nella sconfitta con grande agilità mentale, lucida la mente, come dicono le coautrici del libro, Gagliardi e Armeni nell'introduzione. Lucida la mente, si prende un momento di calma e di inquieta tranquillità per capire come sono andate le cose. La sua diagnosi, leziologia, cioè le cause di come sono andate le cose per Bertinotti sono abbastanza semplici. Alla fine, a pagina 204 di questo libro, che si chiama appunto Devi augurarti che la strada sia lunga, è: la verità è che siamo stati sconfitti dal capitalismo, dalla sua capacità di rinnovamento e dalla sua straordinaria vitalità dinamica. Il capitalismo, il consenso che riesce a organizzare intorno a sé, anche se è in atto una grande crisi finanziaria ed economica internazionale, ma insomma questo modo di vivere, secondo Bertinotti, questo modo di organizzare la vita degli altri, questo modo di organizzare la produzione, il consumo, è quello che poi alla fine ha ottenuto un consenso. Bertinotti parla di un consenso passivo, che ha funzionato come l'anticipazione di un sogno. Insomma, ecco, il capitalismo ha fatto sognare e ha tratto il consenso, sia pure passivo, secondo Bertinotti, mentre il progetto antagonista, l'idea di un altro mondo possibile, di un'altra società, ha incontrato, quantomeno in Italia e in gran parte d'Europa, una fase di vera sconfitta. Ne prende atto Bertinotti e scrive tante pagine molto belle in cui si fa un autoritratto e così fa anche un po' un autoritratto dell'Italia degli ultimi anni. Ne parliamo con lui, che è qui in studio, e lo ringrazio. Grazie, buongiorno, grazie a lei, buongiorno Presidente. Grazie con molto. Enrico De Aglio, anche perché Enrico De Aglio è autore di un librone che funziona come un film, come fosse cinema, scena dopo scena, è la ricostruzione attraverso la cronaca di ogni giorno della storia d'Italia degli ultimi 30 anni. Si chiama Patria 1978-2008 ed è pubblicato dal Saggiatore. E quindi diciamo è il testimone giusto, anche attraverso il suo libro che è appena uscito, per discutere insomma di come sta andando questo paese. Insieme a lui c'è Marcello Veneziani, che è un saggista politico, che ha scritto libri anche lui di storia contemporanea, a partire da quello dell'anno scorso, Rovesciare il 68, Pensieri contromano su 40 anni di conformismo di massa, e un libro sul Sud, Un viaggio civile e sentimentale. Bene, partiamo chiacchierando con Bertinotti sulla storia degli ultimi anni di questo paese, da questa affermazione che ho richiamato nell'introduzione: sconfitti dal capitalismo. L'italiano di sinistra, anche l'italiano di sinistra arrabbiato, oggi pensa: si respingono i migranti alla frontiera senza rispetto per il diritto d'asilo. Naturalmente poi si crea anche un po' di panna, perché c'è chi contribuisce da sinistra e da destra a crearla. Allora praticamente Rosa Parks, cioè non ci si può più aspettare neanche l'eguaglianza nel trasporto nella metropolitana milanese, siamo alla segregazione. Insomma, l'italiano di sinistra è molto arrabbiato e dice: ma qui insomma Berlusconi, il divertimento dell'imperatore, questa vittoria schiacciante, il Parlamento nullificato politicamente che sostanzialmente ratifica le decisioni della maggioranza del governo, eccetera eccetera. E naturalmente poi c'è una parte anche più arrabbiata, più estremista, che dice pericolo di autoritarismo, snaturamento della democrazia, eccetera. Ecco, tutto questo perché siamo stati sconfitti dal capitalismo. Vuole spiegare un po' meglio, Presidente, questo giudizio? Sì, e, indubbiamente qui c'è un punto che è molto, come dire, molto sofferto e molto delicato. E, adesso non dico che sia così originale questo pensiero, perché per un verso è molto classico, però indubbiamente c'è una cosa un po' controcorrente, perché quasi tutte le forme di opposizione e di critica all'esistente sono in qualche modo eredi di un pensiero liberale. Cioè, lei lo ricordava poco fa, che cosa si dice sostanzialmente? Sia che si guardi alla fase, diciamo, precedente, sia che si guardi alla crisi, quello che viene indicato come ragione di crisi è la mancanza di regole, oppure il travisamento delle regole. Cioè, questa cosa funzionerebbe se ci fossero delle buone regole. Secondo me chi dice, altro pensatore eretico, però insomma è abbastanza utile secondo me beccarlo, la cosa più rigorosamente coerente su questo terreno a me sembra Pannella, che anche in quest'ultima denuncia sulla crisi della democrazia in Italia porta alle estreme conseguenze questo schema. Non solo da Berlusconi ma anche da prima c'è un lungo cammino in cui le regole vengono destrutturate. È in qualche modo il recupero dell'idea dell'autobiografia di una nazione, insomma un vizio antico che sarebbe contenuto... Autobiografia della nazione era il fascismo secondo Piero Gobbi. Esattamente, cioè, ci sarebbe il insomma, grande liberale inizio secolo, questo vizio di fondo, sì. E la storia dell'Italia può essere letta invece lei dice non no. È una questione di regole, e invece, esattamente, è proprio il sistema. Allora per questo c'è questo recupero forte della categoria capitalismo. Naturalmente so che su questo punto c'è una grande poi una difficoltà, perché si usa una categoria, quella del Novecento, il capitalismo, in una condizione in cui tutto è cambiato, anzi dici guarda che ci ha battuto un capitalismo perché aveva la forza di innovare, di cambiare profondamente, per cui c'hai un punto di analisi che è veramente in bilico tra il fatto che tu pensi che questo mondo sia cambiato quasi su tutto tranne che nell'essenziale, virgolette, sì. E l'essenziale è il modo di produzione capitalista. Paradossalmente è proprio un capitalismo un po' rivoluzionario, esattamente, che è eversivo, insomma, che sovverte le vecchie regole che riesce a ottenere quel capitalismo consenso. Delle pagine del manifesto del Partito Comunista di Marx, sì. Cioè quello lì proprio potentissimo, fortissimo, che fa anche cultura, purtroppo, diciamo, per noi che pensiamo così. L'esordio è molto teorico, ma è giusto che sia così, perché Bertinotti racconta fatti, fatti anche minuti, ci sono le memorie della sua stagione di sindacalista a Torino che sono molto belle, ed sono proprio il racconto di un mondo scomparso, ma di grande fascino e di grande significato. Però poi lui, Bertinotti, lo sappiamo, insomma, ama un pensiero della società con un suo grado di astrazione. D'altra parte bisogna anche ragionare in questo modo, non si può soltanto sempre scherzare o comunque diciamo limitarsi al microfilm, ogni tanto ci vuole la cosiddetta visione. Provoco Bertinotti su una cosa da lui detta a pagina 78 e vorrei che anche De Aglio e Veneziani su questo, che saluto tra l'altro, buongiorno De Aglio, buongiorno Veneziani, buongiorno a loro. Che anche loro diciamo così drizzassero un attimo l'orecchio. Allora, è molto interessante, Bertinotti dice, quando cadde il muro non pensai in nessun momento, pagina 78, che stava davvero per cominciare un'era di libertà per il mondo. È una confessione, ripeto, di un certo candore, perché chiunque oggi, tanti anni dopo, anzi diremmo il contrario, dice cadde il muro e io mi sentii comunque liberato, eccetera, e disponibile verso un futuro in cui non c'era più la segregazione di una città e con essa diciamo di un popolo o dei popoli d'Europa, dell'Europa dell'Est. Ecco, invece no, dice non pensai in nessun momento che... E ne parlai, qui il candore diventa confessione piena, proprio bella storicamente. Ce ne parlai con Vittorio Foa, che è stato un nome della sinistra, è scomparso recentemente, è stato un grande sindacalista, un socialista, un gielino. Vittorio sosteneva proprio la tesi che, finito il campo socialista, il terreno vero di confronto diventava quello della libertà. e che noi non potevamo eluderlo. Io invece, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, Bertinotti stesso dice, una persona, e non un liberale, non un Marco Pannella, ma un Vittorio Foa, che condivideva la mia esperienza, che era un vecchio socialista, mi disse, guarda, è caduto il muro e adesso è inutile. La lotta di classe va in subordine rispetto al progetto nuovo che emerge come bisogno e impulso della storia, che è quello della libertà. E io gli dissi, no, non è vero, le cose non andranno così bene, non è così bella la prospettiva che tu dipingi. Ecco, ripartiamo di lì. Forse, diciamo, sì, le vittorie, diciamo, del capitalismo anche in Italia, identificato in Italia in modo magari un po' anomalo con la figura di Silvio Berlusconi, perché poi sono finiti i partiti, è successo tutto quello che sappiamo dopo la caduta del muro, dipendono anche da questo, dal fatto che chi ha impugnato la bandiera della libertà ha vinto, perché di quello c'era bisogno e quella era la tendenza della storia. Questo, secondo me, lei diciamo, mette in luce un crocevia, io penso decisivo, e provo a dirla semplicemente perché a me anche adesso mi pare molto complicata. Lei ricorda questa conversazione con Vittorio Foa, la possiamo prendere come esemplificativa, perché diciamo due uomini di statura totalmente diversa, non c'è bisogno di dirlo, Vittorio Foa è un monumento, diciamo, della storia del paese, io no. Proprio discutemmo, anzi litigammo proprio su questo. Lui disse quello che lei ha detto e io quello che lei ha ripetuto. Ora, lì si divaricano due strade nella sinistra italiana. Adesso, ripeto, al di là della diversa autorevolezza dei personaggi. Perché cosa succede? Intanto provo a dire io che cosa era contenuto di errore nel mio punto di vista. Secondo me è una sottovalutazione. Sottovalutazione degli effetti della caduta del muro nei processi politici che soprattutto in Europa si sarebbero determinati. Cioè, lì c'è una sottovalutazione. Perché c'è la sottovalutazione? Perché io ho pensato che quella storia non fosse finita allora con la caduta, bensì prima, con la primavera di Praga, con l'annientamento della primavera di Praga e con, diciamo così, tra virgolette, il tradimento dei partiti comunisti occidentali e del movimento studentesco nato nel 68 di quella esperienza della primavera. Quindi c'è una sottovalutazione, perché dice, vabbè, tu la consideri così poco, invece bada che, dico adesso, l'effetto sarà... Ma quale effetto? Ecco qui. Vittorio Foa dice sostanzialmente, d'ora in poi la partita si gioca sulla libertà. Che cosa gli oppongo? Dice, guarda, no, anzi diventa universale il tema dell'eguaglianza. Dunque il problema di da oggi a domani caduto il muro è proprio il capitalismo, ed è una cosa secondo me che un grande protagonista di quella scena capisce bene, ed è Giovanni Paolo II, che dopo essere stato protagonista, coprotagonista, certo, della caduta dei regimi dell'Est, diventa un critico severissimo del capitalismo. E però ecco qui, le due sinistre prendono strade diverse. La sinistra di cui parla Vittorio Foa... Lei tenta di costruire un'uscita da sinistra dalla crisi. E gli altri, e gli altri hanno un approdo sostanzialmente liberale. Senta, questo è il punto. Sgombriamo subito con la telefonata di Ignazio dalla provincia di Milano, una delle cose più dure, delle accuse più dure che le vengono rivolte, che riguarda il segmento degli ultimi due anni della sua vita politica, la fase della presidenza della Camera. Ignazio, perché vedo che qui nella scheda è molto critico. Ignazio, prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Sputi il rospo, su. So che il suo giudizio è un giudizio molto stroncatorio. Sì, innanzitutto vorrei precisare che ho una grande stima dell'uomo Bertinotti. Ciò nonostante, secondo me, nell'analisi dell'onorevole Bertinotti manca un elemento essenziale, cioè il semi-analfabetismo in cui viviamo molti di noi italiani. La sta prendendo un po' alla lontana, Ignazio. Io ho qui una scheda che dice Ignazio dalla provincia di Milano. La sinistra è scomparsa quando Bertinotti l'ha soffocata sulla poltrona della presidenza della Camera. Esatto. È un giudizio, secondo me, ingeneroso e un po' assurdo, ma vorrei che lei lo formulasse, però, perché altrimenti... Io storcevo il naso quando... Ma perché? Quando ha fatto di così l'onorevole terribile? Bertinotti partecipava ai salotti televisivi. Però dicevo, può essere un metodo per introdursi e combattere dall'interno. Quando l'onorevole Bertinotti ha accettato la presidenza della Camera, ha deluso tutti coloro che credevano che ci volesse ancora un battitore libero che rappresentasse certe istanze. Ah, ho capito. Bene, grazie. Presidente, a lei la risposta, così sgombriamo almeno dal terreno. Sì. Grazie anche per le attestate di stima insieme alla critica così radicale alla questione. Guardi, io non faccio però una difesa, come dire, senza riflessioni critiche su questo punto. Perché sebbene io non pensi come lei, cioè nel momento in cui... Se dovesse tornare indietro, lei non farebbe più il Presidente della Camera, no, resterebbe a fare il battitore libero? No, alla ecco, questo secondo me non si poteva fare. Nel momento in cui la Fondazione Comunista va al governo e per la seconda volta ci prova, dopo essere stato partecipe della rottura del primo governo Prodi, ci deve andare con un investimento. Lì però c'è un punto che io sono, dopo 12 anni di segretario di partito, in qualche modo bisogna anche prendere, diciamo, le distanze da questo ruolo, e d'altra parte non posso neanche tirarmi fuori del tutto da questa esperienza. Non è semplicemente un fatto personale. Del resto io penso, e qui l'errore, che la Presidenza della Camera, in continuità con esperienze molto autorevoli del Partito Comunista e della sinistra, Pietro Ingrao, Nilde Iotti, possa dalla Presidenza della Camera contribuire a fare del Parlamento un luogo permeabile, certo, alle spinte della società civile. Questa cosa invece non accade più perché il Parlamento è già compromesso, è già anchilosato, e perché il governo è diventato il dominus e c'è una impermeabilità che peraltro, certo, il governo poi accentuerà. De Aglio, lei questo libro per i tipi del saggiatore, Storia italiana, Patria, 1978-2008, forse si sarà fatto anche lei un'idea del perché della sconfitta di un, almeno di una sinistra antagonista, insomma di una sinistra. Sì, no, saluto Fausto Bertinotti intanto. Grazie. Guardi, il libro, come lei ha detto, è un film, cioè impresa diretta, quindi racconta al tempo presente quello che sta succedendo, anche se poi tante cose si sono sapute dopo, quindi sono ricostruite. Ma per quanto riguarda la caduta del muro, sono contento che venga questa cosa, perché un piccolo esempio può servire. Io racconto, e la fonte è Claudio Petruccioli. Claudio Petruccioli scrisse un libro che si chiamava Rendiconto anni fa, insomma, che passò non tanto osservato, ma in cui lui raccontava cosa successe nel PC quando venne la notizia che era caduto il muro. E allora la situazione era quella che i vecchi del partito, cioè Alessandro Natta era presidente onorario, presidente eccetera, Pajetta praticamente non aveva in carica, avevano lasciato il campo ad un'altra generazione, dove c'erano Occhetto, Petruccioli stesso, D'Alema, Livia Turco, eccetera. I quali, siccome Occhetto è all'estero, alla notizia si trovarono tempestati di telefonate di militanti e non sapevano cosa fare, che linea adottare, eccetera. E Petruccioli racconta che entrò nella stanza di Natta ed lui era seduto nella penombra così, e gli puntò il dito Natta e disse: ditelo che volete cambiare nome, no? Sì. E poi dice: fate quel che volete, tanto tutto è finito, ha vinto Hitler. Questa fu la sua reazione. Poi annota anche un'altra cosa, che questa entra più nel merito della questione, che alla libreria Rinascita, che come i romani sanno sta sotto via delle Botteghe Oscure, sì, si presentava quella sera un libro di Michele Serra che si chiamava Il nuovo che avanza, sì, e un relatore era il famoso regista Nanni Loi, sì, il quale disse: vi odio voi tedeschi dell'est che avete barattato un ideale per un frullatore e un porno shop, sì, perché era il momento in cui tutti i berlinesi dell'est andavano ad ovest, sì, eccetera, no? Naturalmente Nanni Loi si presume che a casa avesse un frullatore e non solo, non dico il porno shop, forse anche un vibratore, no, no? Beh, adesso non esageriamo, no, porno shop, no, si vendono quelle, sì, cose lì. E però la cosa che impressionò Petruccioli fu che ci fu un boato da parte del pubblico, no? Sì. Il pubblico stava con questa visione. Lo so. Machiavelli diceva: chi disse popolo disse mille volte uno pazzo. No, ma comunque, popolo applaude nei momenti più sbagliati. L'incomprensione totale, insomma, come se ci fosse un'altra, sì, parte del mondo che per far piacere a noi doveva rinunciare, no, a qualsiasi, sì, cosa che non era fatto. 800 24 00 24. Abbiamo sentito un magnifico spot del libro di De Aglio, Patria, per la voce dello stesso De Aglio, che dice: vi racconto 30 anni in cui c'è poco kiss kiss e molto bang bang, perché in effetti tra mafia, terrorismo, eccetera, insomma, è stata una fase abbastanza atroce della nostra vita. Ma a proposito di mafia, De Aglio, dal libro si intuisce questo, ma lei è veramente convinto che Berlusconi e Dell'Utri hanno messo le bombe del 92? Non è un po' esagerata questa? Sono stati archiviati. Appunto, sono stati archiviati. Hanno indagato su di loro, hanno due procure diverse, hanno messo sotto osservazione tutti i loro legami, eccetera, e hanno concluso che non erano sufficienti per andare. Va bene, accetto questa risposta formale, anche se naturalmente una risposta meno formale mi avrebbe fatto più felice, perché sono un provocatore, ma insomma io su queste cose ci scherzo, perché ovviamente non... Ma Veneziani, ascolti con me questa telefonata e poi la commenta. Salvatore da Lucca. Pronto? Sì, caro Salvatore. Sputi il rospo. Niente, io ascoltando l'intervento di Bertinotti mi era venuta una riflessione che in verità già avevo fatto altre volte, senza nemmeno tanto, come dire, vagliarla, proprio distinto. E la riflessione era un attimino questa qui, ed era in relazione, diciamo, al motivo per cui gli antagonisti della sinistra vincono sempre e la sinistra, tra virgolette, è quasi sempre perdente. Il discorso era un attimino questo qui. Immagino la differenza tra... Lei dice che il passato è il martirio della sinistra italiana, che è una formula giornalisticamente molto, molto curiosa, bella. Il passato, sì. In che senso? Nel senso che mentre gli uomini di sinistra sono sempre degli intellettuali, non si sganciano mai dal loro essere intellettuali e quindi non si mettono mai un attimino a vedere come si raccoglie il consenso. Ah, non sono pragmatici, esatto. Non stanno sui fatti, hanno il passato, la memoria, insomma, pensano il tempo in un modo. Che è interessante. Sentiamo Veneziani su questo. Marcello Veneziani. Ma io credo che non sia soltanto, come dire, l'essere abbarbicati al passato la ragione di una sconfitta. Penso che si sia anche ritirato il futuro nelle prospettive non solo del comunismo, della sinistra, ma direi più in generale della politica. Quando manca una dimensione legata al passato e una dimensione legata al futuro, prevale ovviamente il presente. Prevalendo il presente si perde ogni seme di progettualità, ogni utopia, e di conseguenza si gestisce con gli strumenti del presente, che sono la tecnica e sono l'economia. Ecco, io a questo proposito riflettevo pensando proprio a quello che diceva prima Bertinotti sul muro di Berlino. Anch'io sono convinto che alla lettura, diciamo, celebrativa, euforica della caduta del muro e alla indubbio, diciamo, segno di libertà di quella caduta, si debba aggiungere anche un'altra lettura. Cioè, con il muro caduto, e i muri sono sempre ambigui, cioè lasciano cadere sempre due realtà, non cade soltanto diciamo, l'oppressione e si apre la libertà. Nasce anche un mondo all'insegna del dominio della tecnica e dell'economia. E rispetto a questo mondo della tecnica e dell'economia, il comunismo non è antagonista, ma è la versione, diciamo, regressiva e perdente della tecnica e dell'economia. E di conseguenza la vittoria va a chi interpreta in modo più moderno la tecnica e l'economia e chi riesce ad applicare i benefici della tecnica e dell'economia al privato, alla dimensione dell'individuo. E qui c'è una, diciamo, una discordanza rispetto alla sua analisi. Non ha vinto il capitalismo, a mio parere, ha vinto la globalizzazione come intreccio di tecnica ed economia, cioè un processo che non riguarda soltanto le grandi fabbriche, il processo capitalistico dell'industria che noi conosciamo, ma che riguarda anche la tecnologia, l'uso di internet, la privatizzazione delle forse, sistemi. Forse c'è un ascoltatore che è sintonizzato sulla sua stessa lunghezza d'onda. Claudio, sì. Da Vicenza. Claudio. Pronto? Sì, eccoci. Sono Francesco, ma non importa. Qui mi hanno scritto Claudio. Buongiorno da Vicenza. Non importa. Intanto sono contentissimo di poter parlare con lei, ascolto appena posto. Grazie. Senta, non so, adesso tutte queste interpretazioni, queste chiamiamole filosofie, sono interessantissime. Però a mio avviso, e qualsiasi fosse stato lo sforzo della sinistra, comunque le cose sarebbero andate così. Perché a mio avviso il mondo, diciamo, degli operai o comunque delle categorie che da sempre la sinistra ha difeso è davvero cambiato in questi anni. E le faccio un esempio molto, ecco, molto concreto. Sì, io non sono un operaio, però diciamo ho uno stipendio da operaio, d'accordo? Sì. E ho amici che sono operai, sì. E le assicuro che ci sono molti di questi giovani o uomini, insomma, della mia età, io ho 40 anni, che fanno gli operai, hanno una, sicuramente una discreta specializzazione professionale, però poi hanno il fuoristrada, con serenità si stanno pagando il mutuo per la casa, cioè hanno uno stile di vita, pur essendo operai, che è davvero alto. Ecco, allora, Francesco, grazie. Dalla ipercapitalistica Vicenza, capitalismo moderno, capitalismo delle tre Venezie, capitalismo dei distretti, Francesco ci dice un po' quello che ci stava dicendo Veneziani, la globalizzazione, cioè un effetto, la vittoria, la dittatura dei mercati e del loro specifico relativismo, no? Per cui alla fine poi ce la si cava, cambia la natura del lavoro, del reddito, sì, sembra teoricamente... il reddito è rimasto molto indietro rispetto agli altri indicatori dello sviluppo sociale e soprattutto il reddito da lavoro dipendente, però poi c'è il popolo delle partite IVA, cioè, insomma, e in questa... De Aglio, lei è stato sempre un notevole analista delle trasformazioni sociali, con il gusto anche minimalista, cioè andare a vedere, no, i piccoli indicatori, eccetera. Quali sono stati gli anni decisivi in cui l'Italia, diciamo, si è organizzata in modo tale da dare lo spettacolo che da oggi? Gli anni 80, brutto spettacolo secondo me, per definirlo, ma comunque sono gli anni 80, dal punto di vista, diciamo, della nostra organizzazione dello Stato, il punto poi da cui il mio libro comincia è il rapimento e l'uccisione di Moro, certo, perché questo trasforma le nostre istituzioni e porta purtroppo con grandi strascichi una vicinanza tra criminalità e potere che non esiste in nessun altro paese. Questa è la prima cosa. Come per quello che riguarda le trasformazioni del paese, diciamo, materiali e così eccetera, sono gli anni 80. È il grande attacco agli operai della Fiat da una parte e questa intraprendentissima borghesia mafiosa calabrese, siciliana, eccetera, che cambia gli equilibri del capitalismo italiano. So bene che questa cosa non entra mai, diciamo, nel dibattito economico, politico, eccetera, su cosa è successo in Italia, per me invece è importante. Mi piacerebbe sapere se anche Bertinotti condivide la nettezza del giudizio, la perentorietà del giudizio di De Aglio sul fatto che oggi noi assistiamo a un brutto spettacolo. La categoria bello brutto può essere ambigua perché sembra una categoria estetica, ma si capisce il senso. De Aglio assume un punto di vista molto radicale sul presente, dice no, è proprio uno schifo, non funziona, qui appunto criminalità e potere sono contigui, non gli piace, le istituzioni non hanno più un rapporto sano e fertile, diciamo, con la rappresentanza democratica, insomma è la critica quella più estrema. Lei la condivide o no? Ma larghissimamente sì, però non so se siamo d'accordo con De Aglio sulle cause che produce questo elemento di nuovo, torno qui al discorso dei veneziani. Io riconosco che c'è impastato con la storia del comunismo anche la dimensione della tecnica e dell'economia, cioè l'idea produttivistica. Vedo, insomma, qui Andrea da Frosinone che dice crisi dei valori della sinistra e dominazione della scienza, sono in molti a entrare. Ma questo è veramente un problema, però non si può non vedere l'altra faccia della luna. Il movimento operaio, in particolare quello occidentale, è stato anche protagonista di una critica a questa dimensione, in nome di che cosa? In nome di un'idea di liberazione. Allora Veneziani dice: ma siete stati sconfitti, intesi come sinistra, non dal capitalismo ma dalla globalizzazione. Il punto è che per me la globalizzazione è la rivoluzione capitalistica conservatrice. Allora, questo punto è ciò che determina la crisi di civiltà. Rispetto a Enrico De Aglio, io penso che c'è, diciamo, una estremizzazione della crisi nel caso italiano, ma la tendenza alla crisi della democrazia, alla crisi di civiltà, è una tendenza di questa fase. Per dirla rozzissimamente, secondo me ai 30 anni gloriosi che succedono alle costituzioni democratiche dopo la vittoria contro il nazifascismo in Europa, succedono 30 anni ingloriosi in cui, insieme a un cambiamento radicale che culturalmente nelle sue parti va indagato perché c'è dentro anche delle cose interessanti, c'è proprio una vera regressione di civiltà. Questo mi pare. Insomma, prendiamola così, rozzamente: operaio, non è scomparso. Nel 76 in Italia aveva le retribuzioni più alte d'Europa, nel 2006 le più basse d'Europa. Il salario dice qualche cosa dello stato della civiltà di un paese. Per 12 anni, cambio un po' terreno, lei, Presidente Bertinotti, ha fatto il segretario di un partito molto combattivo, tutti i giorni in televisione, e poi il Parlamento, e poi i comizi, e poi le campagne elettorali, e poi appoggiare un governo, non appoggiarlo, fare la crisi, non fare la crisi, le 35 ore, eccetera, eccetera, al centro del centro del centro della politica italiana. Adesso ha molto tempo per i suoi nipoti e pur conducendo una vita mentalmente attiva, intellettualmente attiva, scrive libri, anima una rivista, eccetera, è defilato, come si dice, è in una fase di ritiro e di meditazione, lucida la sua mente, come hanno detto le coautrici del libro, la Armeni e la Gagliardi. Allora, come si vive un'esperienza di questo genere in brevissimo tempo, perché poi devo mandare le strade in diretta? Cioè, che significato ha nella vita di una persona interrompere? Faccio un po' fatica a dirlo, perché sento la contraddizione tra questo stato che chiamerei di benessere psicologico e intellettuale e il disagio fortissimo che mi viene dalla crisi della politica in cui milito. Cioè, insomma, io dal punto di vista personalmente ex capo di una comunità lei non è contento dell'attività proprio lavorativa. Sto bene, perché io anche penso che in questo momento è il terreno della semina, e tuttavia penso anche che lo stato disastroso del mondo a cui appartengo dovrebbe determinarmi una condizione di disagio maggiore di quello che soffro personalmente. Vabbè, addirittura i sensi di colpa. Vabbè, ormai la società è freudianamente impostata. Ho una domanda un po' provocatoria, 800240024 per Enrico De Aglio, autore, lo ricordo, di un gran libro, di un centone di 1000 pagine che si chiama Patria 78-2008. È probabilmente il testo di intrattenimento, lo dice lui stesso nella prefazione, perché non è un pedante De Aglio, sul quale si educherà un pezzo di una generazione di italiani, di giovani, di ragazzi che la storia la apprenderanno qui. Ora, la domanda provocatoria è questa. De Aglio, lei è sempre, diciamo, come dire, dietro le cose. Cioè, lei pensa che ci siano due stati, due chiese. No. Cioè, come no? Sì. Due stati, due chiese. Accidenti. No. Come no? Lei è doppio statista. Lei, cioè, mi pare che lei dica che, insomma, non so, Moro è stato rapito, sì, dalle Brigate Rosse, eccetera, però poi Via Gradoli è stata fatta scoprire da qualcuno che e poi Albino Luciani è morto, sì, nel suo letto, eccetera, ma non è stata fatta l'autopsia e forse aveva detto qualcosa di più di quello che doveva dire in un'omelia. Cioè, lei sparge molto il sospetto in tutto l'arco di questi 30 anni. Lei rintraccia molti motivi per dubitare che ciò che si vede. Però se le cose sono così, se tanto c'è un altro Stato, un'altra Chiesa, c'è sempre un altro potere che fa e disfa il tempo presente, non è meglio coltivare il proprio giardino, come diceva Voltaire? Cioè, i teatri... Ma sì, cioè, voglio dire, questa visione non rende un po' impotenti, no, i lettori? Direi, no, se dovessi dire, diciamo, la cosa che mi convince di più di questi 30 anni è che c'è stata questa corrente impetuosa, no? Non so come definirla, veramente di trasformazione molto feroce dello stato del nostro paese, ma c'è stata anche tantissima resistenza che ha allentato, che ha frenato, che ha fatto, eccetera, eccetera. Per cui penso che la cosa non finirà qui, non è finita, non c'è la fine della storia, no? Come qualcuno potrebbe immaginare, visti i livelli di consenso del governo. Insomma, lei dice ci si può ancora dare da fare, guarda, naturalmente lo faccio, però posso approfittare proprio come per mettere due cose per chiedere a Fausto Bertinotti, che mi stupisce un po' questa vittoria del capitalismo, glorificazione, proprio nei mesi in cui tutto il mondo dice la fine del capitalismo, perché colla Wall Street, collano le banche, cose, eccetera, eccetera, tutto un sistema, e via di seguito si dimostra assolutamente avido, inetto e così via, e lo Stato corre a mettere i soldi per evitare... Anche se il capitalismo ha sempre proceduto di crisi in crisi. Sì, d'accordo, però... Con lunghi periodi di prosperità che purtroppo l'altro sistema non ha garantito. Prego, Bertinotti. Posso? Sì, certo. Se non pensa anche Fausto Bertinotti che, diciamo, una classe operaia, eccetera, non visibile, eccetera, esiste in Italia, è ricca di 4 milioni di persone, sono gli immigrati, diventeranno il doppio tra 10 anni e che quindi vale la pena considerarli, no? Beh, questa diciamo è la ragione di un'esistenza politica, non solo di una militanza. Io continuo, infatti tutta la mia interpretazione è legata al fatto che la classe, che la lotta di classe permane, è tutta in così. Allora, rispetto alla crisi, però, che è il nucleo della domanda, ho detto prima, io penso che, come altri, che ai 30 anni gloriosi si siano sovrapposti i 30 anni ingloriosi di una grande modernizzazione senza modernità. La crisi che interviene è, secondo me, una vera crisi di sistema. Per usare le parole di Guido Rossi, è la crisi del capitalismo finanziario globalizzato. Dunque, questa crisi falsifica la tesi della globalizzazione, perché qui, lo dico a Giuliano Ferrara, modestamente, ma lo dico fermamente, il presupposto era che questa modernizzazione avrebbe eliminato la crisi. Cioè, invece torna. E quindi c'è una falsificazione, ma di quello di cui parlavamo, la vittoria, non è cancellata da questa crisi, perché per 30 anni quel paradigma ha trionfato, fino al punto che si è parlato di pensiero unico. La crisi avviene, ma per contraddizioni interne alla ristrutturazione e modernizzazione capitalistica, non perché noi gli altermondisti rivinciamo. Questo è il punto, e dunque stiamo dentro una grande difficoltà. Loro perdono, loro come capitalismo entrano in crisi, ma noi non abbiamo accumulato le forze sufficienti finora per determinare un'alternativa di modello. Bene, Leopoldo da Milano introduce un elemento che sembra piuttosto pepato, il nome di Craxi e quello di Di Pietro Associati. Vediamo come, Leopoldo. Buongiorno a tutte. Buongiorno. Sì, mi pareva che mancasse un elemento nell'analisi della crisi della sinistra. Il mio punto era che rispetto al tema uguaglianza, rispetto alla libertà che si è citato, ma posto che la libertà dovesse vincere, la vera alternativa era il buon governo rispetto alle idee. Avevano regnato idee per 30-40 anni e una volta che il capitalismo aveva trionfato c'era bisogno di buon governo. Ma abbiamo un destino, l'ascoltatore intelligente, come direbbe la guida dell'Espresso, abbiamo un sacco di pareri interessanti. Mi piace molto questa cosa. No, l'idea che i 30 anni gloriosi di cui parlava Bertinotti sono stati 30 anni in cui dominavano le idee, poi sono arrivati 30 anni in cui invece si è cercato, non è male, insomma, il riformismo, la crisi diciamo della sinistra utopistica e prefigurante, interessante. Grazie Leopoldo. L'ultima parola la do a Veneziani, perché qui in questa comunità di sinistri orrendi che siamo De Aglio, sia pure con destini diversi, Bertinotti ed io, è un punto di vista almeno diverso. Veneziani, dica lei. Sì, ma a proposito della modernizzazione di Craxi vorrei dire una cosa, cioè che indubbiamente, come dire, il processo di modernizzazione aveva bisogno di qualcuno che lo governasse. Ecco, il craxismo è stato l'unico tentativo da sinistra di non porsi contro la modernizzazione e contro il vento della libertà, ma cercare di governare questi processi attraverso il primato della politica, attraverso la centralità della decisione rispetto alla rappresentanza. Ecco, questi sono magari temi sui quali Bertinotti è in dissenso, perché ritiene che invece diciamo l'acuirsi della decisione rispetto alla rappresentanza sia un indebolimento della democrazia. Invece era forse l'unico modo per governare la modernizzazione e farla diventare anche modernità e quindi darle anche, come dire, un valore ed una prospettiva. Aggiungo anche un'altra considerazione, che forse in una diciamo autocritica della sinistra a proposito del rapporto col capitalismo, si dovrebbero porre due diciamo limiti interpretativi. Uno, quello di considerare il capitalismo come una forza conservatrice. Ecco, io credo che, l'ho sentito anche prima, credo che questo sia un errore capitale, perché al contrario il capitalismo è una forza modernizzatrice, è una forza di forte sradicamento, e allora l'identificazione del capitalismo con il mondo del passato è stato forse un errore strategico che ha avuto delle conseguenze. Bene. Così come, se posso aggiungere un'ultima considerazione veloce, così come come dire, risolvere la polemica politica e culturale della sinistra nell'ambito dei diritti civili, nell'ambito del riconoscimento delle sessualità, eccetera, significava un po' scendere sullo stesso terreno degli effetti del capitalismo, cioè gli effetti appunto di una società sempre più libera. Grazie a Marcello Veneziani. Ricordo i due libri: Enrico De Aglio, Patria 1978-2008, edizione Il Saggiatore, e Fausto Bertinotti con Ritana Armeni e Rina Gagliardi. Devi augurarti che la strada sia lunga, un bellissimo verso di una splendida poesia di Cavafis. Ponte alle grazie. Grazie a tutti voi e naturalmente, come sempre, in redazione Franca Fossati e Gloria Guerrero, in regia Valerio Rocchetti e Peter Bescapè, linea al giornale radio, poi Gianluca Nicoletti con Mailog 2.0. Grazie, a domani.